Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i gastronauti e tutti i radioascoltatori. Ebbene, in questa trasmissione di solito parliamo di gusto, parliamo di ristoranti, parliamo di vini, insomma parliamo di cose molto ma molto piacevoli appunto alla bocca. Oggi invece parleremo di una cosa che è completamente diversa ma altrettanto e forse ancora più importante. Parleremo di spreco perché i dati veramente sono così uno specchio anche di una società, sono uno specchio di quello che sta avvenendo anche in questo paese. Ebbene, dai dati risulta che pro capite vengono buttati nella spazzatura 42 kg di cibo. Bene, come ho detto prima, le statistiche lasciano il tempo che trovano, nel senso che qualcuno butta zero e altri magari 84. Però questo non è importante, l'importante è occuparsi di questo problema e vedere cosa si sta facendo per recuperare oppure per non arrivare appunto alla pattumiera. Oggi sentiremo molte persone che sono impegnate, diciamo, su questa operazione, e cerchiamo di capire appunto cosa ognuno di noi potrebbe fare. Ricordo il numero verde 800 24 00 24 a chi volesse intervenire, 349 238 6666 chi volesse mandare degli sms sull'argomento. Iniziamo a parlarne con un personaggio che per primo, forse già da anni, si sta occupando di questo grosso problema, e devo dire che forse 5-6 anni fa, se ben ricordo, già su questa trasmissione abbiamo parlato di questo argomento con Andrea Segre. Buongiorno Andrea. Buongiorno Davide, buongiorno a voi. Segre è presidente di Last Minute Market, di cui parlammo a suo tempo, è promotore di una campagna Un anno contro lo spreco, e in questo momento è al Festival dell'Energia a Perugia, dove si parla anche di spreco di energia, ma noi oggi parleremo di cibo. Andrea, si sono fatti dei passi in avanti su questo fenomeno appunto di sprecare meno, di trovare delle soluzioni per non buttare cibo ancora sano? Sì, si sono fatti dei passi, la testimonianza è oggi al Festival dell'Energia, perché gettando via il cibo si getta via l'energia che è stata utilizzata per produrlo, trasformarlo, distribuirlo e poi non consumarlo e smaltirlo. Stessa cosa per l'acqua. E abbiamo lanciato 3 anni fa una campagna europea, Un anno contro lo spreco, col Parlamento europeo. Il primo anno abbiamo dato i numeri dello spreco di cibo, libro nero dello spreco 2010, poi il libro blu dell'acqua, quest'anno il libro verde, in attesa del 2014 che il Parlamento ha chiesto come anno europeo contro lo spreco, perché non è un problema soltanto dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Basta vedere i dati internazionali e capiamo che questo mercato, chiamiamolo così, fallisce perché produce di più di quello che si consuma, generando poi dei costi ambientali, costi economici e anche dei costi sociali, e non ce lo possiamo permettere adesso, soprattutto perché siamo in crisi. Bene, ricordo il numero verde 800 24 00 24, raccontateci magari chi sta cercando di recuperare anche a casa, magari con gli acquisti, ecco, quali sistemi vengono messi in opera. Io ora con noi Claudio Mazzini, responsabile sostenibilità della Coop Italia. Buongiorno Mazzini. Buongiorno a lei e a tutti i teleascoltatori. Ecco, la grande distribuzione ha un ruolo importante su questo, perché se non erro con 48 ore di anticipo, quando stanno per scadere i prodotti li dovete buttare. Quindi quali sistemi vengono adottati per non arrivare alla spazzatura? Devo dire che proprio con Andrea Segre, che saluto, qualche anno fa avviamo una sperimentazione che oggi, a diversi anni di distanza, ha portato a questo progetto che da noi si chiama Buon Fine, che è nato per recuperare i prodotti invenduti ed evolverli alle organizzazioni di volontariato, quindi prodotti alimentari come i freschi di fine giornata o quelli che hanno semplicemente la confezione danneggiata, che sono comunque perfettamente sicuri e commestibili, ma che, come dire, commercialmente non hanno più la loro validità, vengono donati a una fitta rete di associazioni locali con le quali abbiamo questo tipo di relazione. Per darvi alcuni numeri, nel 2010 abbiamo collaborato con oltre 1000 associazioni sul territorio, ovviamente parliamo di prodotti che hanno a quel punto una vita residua molto breve e quindi devono essere commercializzati immediatamente. Abbiamo donato quasi 3 milioni di chili di prodotto per un controvalore di oltre 18 milioni di euro, quindi, come dire, per quanto ci riguarda, la nostra parte crediamo di averla fatta e la continueremo a fare. Sentiamo Salvatore da Torino, un radioascoltatore. Buongiorno Salvatore. Buongiorno dottor Paolini. Senta, io mi sento molto portato alla sua trasmissione, mi congratulo con lei per il fatto che abbia aperto questa cosa. Io abito in una strada in Corso Sebastopoli a Torino, dove è pieno di supermercati. Uno in particolare di fronte a casa mia butta la roba praticamente nel bidone dove io butto la mia. Beh, è uno sterminio, cioè apri quel cassone e vedi confezione di frutta, anche tropicale, di qualsiasi genere. Solo perché magari ce n'è una nella confezione che magari è andata male, un pacco di ciliegie da un chilo, ce n'è una che c'ha un po' di muffa e viene buttata via. La mia compagna lavorava in una grande catena di fast food dove lei doveva buttare via centinaia di panini perché scaduti da 2 minuti. E bene, quando io ho chiesto se potevo prenderli per portarli al canile mi è stato detto no, non è possibile. Grazie, è possibile. Salvatore, ora la facciamo commentare da Andrea Segre questa sua telefonata. Andrea. Ma sì, esatto, la Smart Market è proprio questo, che ha messo in piedi un sistema molto sostenibile, una sorta di chilometro zero dello spreco, recuperi l'eccedenza laddove si forma e lì la consumi, poi è evoluta con altri nomi, con altri marchi, l'importante è farlo, si può fare, per questo diciamolo, questo cassonetto pieno che è laddove non ci sono iniziative di questo tipo, perché noi possiamo recuperare rispettando la qualità dei prodotti, le scadenze, è tutto in realtà, basta volerlo fare e non se ne può più, devo dire, perché ne sento tanti, anch'io, non di ascoltatori ma di persone che mi scrivono, sotto casa vicino al supermercato c'è il cassonetto dove magari c'è qualcuno, qualche povero che va, apre e prende quello che è ancora buono da mangiare. Il nostro bidone della spazzatura sui 540 chili di rifiuto solido urbano, da un terzo a un quarto sono prodotti ancora consumabili o utilizzabili. Allora c'è qualcosa che non va nel nostro sistema. Le tecnologie, le metodiche per recuperare ci sono tutte, lo fanno in molto, ecco, bisogna farlo, ma agire a monte, cioè bisogna fare in modo che questo spreco non si formi. E laddove c'è la Smart Market, questo è il dato, il nostro obiettivo si chiama spreco zero, ridurre gli sprechi e poi liberare delle risorse per i poveri, per gli affamati, ma non dando gli avanzi dei ricchi ai poveri. Ecco. E quindi cercare di prevenire, e ci sono tante azioni che si possono fare, per esempio che anche le catene di distribuzione hanno iniziato a fare, vendere i prodotti scontati, ma va fatto perché è una misura antispreco e anticrisi. Quello yogurt che sta per scadere, che ha ancora 48 ore di vita, che nessuno di noi compra, mettimelo al 50%, vedrai che non si forma un rifiuto e vai verso un consumatore che, come dire, si avvicina alla frutta. Grazie Andrea, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Mazzini, rimani con noi, grazie. Il gastronauta. Oppure, come dice un nostro radioascoltatore, forse invece di occuparsi di spreco bisognerebbe comprare meno. Questo è un po' l'obiettivo sicuramente che potrebbe anche essere messo in funzione. Ma sentiamo Livia dalla provincia di Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno, sono sostanzialmente d'accordo con l'ultimo evento che ho sentito alla radio. Se nel supermercato fosse presente un angolo dove si vendono i prodotti che hanno la confezione ammaccata, ma io lo comprerei volentieri, perché comunque non compro la confezione, certo compro quello, soprattutto il prodotto, quindi non mi considero un povero, però credo che sia importante davvero il risparmio per tutti e evitare lo spreco. Guardi, le facciamo rispondere da Claudio Mazzini della Coop. Credo che non sia possibile vendere la bottiglia o il barattolo ammaccato, è così Mazzini? Allora, per quanto riguarda i prodotti prossimi alla scadenza, già noi pratichiamo sconti per i prodotti appunto, nell'ultimo 24-48 ore. Ciò non toglie che comunque sia anche questi prodotti non a tutti sono graditi e quindi ritengo comunque che la soluzione di poterli donare a chi ne ha bisogno sia comunque un'ottima soluzione. Secondo me tutte le leve vanno messe in campo. Per quanto riguarda le confezioni, dipende dal tipo di danno. quando ovviamente una confezione aperta non è più vendibile. Ad esempio un pacchetto di merendine, per intenderci, che sia aperto, nonostante all'interno ogni singola poi sia confezionata da sola, però non è vendibile singolarmente, quindi in quel caso non sarebbe possibile. Tuttavia, ripeto, secondo noi la cosa importante è riuscire a mettere insieme tutte le azioni, a partire da, come diceva giustamente la radioascoltatrice, da forse anche una maggior sobrietà nell'atto di acquisto e quindi una maggior consapevolezza di quello che stiamo acquistando, che è il primo modo per non sprecare. Poi però ovviamente ognuna di queste da sole non è in grado di risolvere il problema, certo. Tutte assieme forse riescono a ridurlo verso quell'obiettivo spreco zero che condivido. Bene. Assolutamente. Grazie a Mazzini. Ora io direi di sentire anche un altro radioascoltatore, Antonio da Caserta. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Niente, in realtà mi volevo ricollegare al discorso che faceva l'esperto poc'anzi, in quanto praticamente i prodotti che vengono freschi, quindi che praticamente dovrebbero essere consumati e quindi venduti nell'arco della stessa giornata, in alcuni paesi europei all'arco della fine giornata praticamente vengono venduti con il 50% di sconto nell'ultima ora, quindi prima della chiusura dei grandi supermercati, come per esempio avviene oggi in Svizzera. I prodotti di freschi vengono venduti al 50% di sconto, però tutti i giorni, quindi si creerebbe un'utilizzazione efficiente e allo stesso tempo si ottimizzerebbero i rifiuti e quindi gli sprechi. Grazie del suo contributo. Siamo veramente pieni di SMS e di telefonate. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Bene, ora abbiamo con noi Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, dove diciamo ha organizzato nei giorni scorsi appunto un convegno e un'indagine su questo. Buongiorno Vittadini. Buongiorno. Io le voglio chiedere questo: le eccedenze alimentari come opportunità, questo è stato un po' anche il tema del vostro convegno. Ecco, c'è un'opportunità per le eccedenze? Allora, certo, perché ancora adesso le eccedenze della filiera alimentare per l'81% diventano spreco, sono buttate via, ma già il 20% viene recuperato attraverso reti come quelle del Banco Alimentare o di altri food banks e viene distribuito attraverso enti di assistenza ai più di 2 milioni di poveri esistenti in Italia, per cui si recupera già il 20% di questa eccedenze e si potrebbe arrivare al 50% di questo, quindi recuperando per fini caritativo assistenziali di welfare una gran parte di quello che si butta via. Vittadini, rimanga con noi, sentiamo Oreste da Bologna, un radioascoltatore. Buongiorno Oreste. Buongiorno a voi, grazie per la trasmissione. Prego. Vorrei intervenire per dire che giustamente tutto quello che è stato detto, ma le varie associazioni che sono veramente importanti e stanno facendo un bellissimo lavoro per la gente che ne ha veramente bisogno, bisognerebbe fare in modo di andare a toccare non solo la grande distribuzione che è all'altezza della situazione, ma anche i piccoli supermercati, che oggi il cibo non deve essere buttato veramente in spazzatura, anche quello che è scaduto meno, ma queste associazioni, dalla Papa Giovanni XXIII a tanti alla Caritas o tanti altri, che fossero più presenti e facessero magari più informazione come viene col Banco Alimentare, che si potrebbe fare in modo di non buttare, come sentivo prima, nella spazzatura un cibo che giustamente molte famiglie potrebbe far piacere o essere utilizzato. Grazie Oreste. Io vorrei tornare al dottor Vittadini, vorrei chiedergli questo: sì, facciamo una lotta contro lo spreco, ma probabilmente dovremmo anche educare magari a comprare il giusto e non a comprare le eccedenze. Lei cosa ne pensa, Vittadini? Ma le do anche un altro dato che dice com'è vero questo, perché le famiglie italiane sprecano 3-4 volte in meno già delle famiglie americane e inglesi, proprio per una certa educazione, perché si mangia a tavola non aprendo il frigorifero, perché si pensa a qualcuno. E questo dice che già questa educazione ci permette un certo risparmio. Se l'educazione cresce, si comincia a prendere ciò che è necessario. Proprio il consumismo alimentare aumenta lo spreco. Bene, e sentiamo Giuliana Tedesco, che è assessore al commercio e attività produttive del Comune di Torino, per il mercato appunto famoso di Porta Palazzo. Volevo chiedere appunto, assessore, c'è qualche iniziativa per ridurre lo spreco appunto in questo mercato che è così importante? Buongiorno. Eccomi, grazie, buongiorno. No, è che, vede, a differenza dei supermercati, nei mercati torinesi, a Porta Palazzo in particolare, che è il mercato più grande d'Europa, l'attenzione alla quantità del l'invenduto è molto alta e, ripeto, a differenza dei supermercati, è a cura di ogni singolo operatore commerciale. Noi abbiamo abbiamo diversi report da parte di ANIAS, che è la società di smaltimento rifiuti della città di Torino, che ci segnala che l'invenduto alimentare che finisce nel compostaggio, quello di Porta Palazzo, è quasi sempre praticamente cibo del tutto marcescente, quindi praticamente recuperabile. E questo perché in questo momento storico, quindi di fragilità economica, l'attenzione all'invenduto da parte degli operatori è assolutamente aumentata. Però non è, come dire, l'unico dato che io potrei citare sul mercato di Porta Palazzo, perché abbiamo messo in atto un progetto molto interessante, che è quello del Last Minute Market, che è curato da uno spin-off dell'Università di Bologna. Sì, abbiamo avuto prima Segre, appunto, che ci ha parlato del Last Minute Market. Esatto, e anche perché attorno al mercato di Porta Palazzo gravitano numerosissimi enti benefici di volontariato, quindi si attua praticamente un circolo virtuoso del tutto utile in questo momento storico. Bene, grazie a Giuliana Tedesco. Volevo ritornare a Vittadini, ricordo comunque il numero verde 800 24 00 24. Dottor Vittadini, cosa avete intenzione come fondazione per la sussidiarietà anche di dare dopo questo rapporto? Ecco, di iniziative pratiche, di iniziative concrete? Pratica, allora, lei pensa, per quello che aiuta questo recupero è una altissima tecnologia, perché bisogna rendere sicure le imprese o i supermercati e anche i consumatori, che ci sia sicurezza alimentare, non si possono dare cibi avariati, e poi che non si arrivi a creare un secondo mercato. Allora, attraverso questo studio con le federazioni alimentari e il Banco Alimentare, si sta proprio migliorando questa rete di altissima efficienza e tecnologia, proprio per aumentare la quantità. Senza queste garanzie evidentemente le imprese non si fidano, e non si può neanche dare ai poveri merci avariati. Certo, per cui stiamo costruendo questa rete tecnologico efficiente. Bene, la ringrazio, grazie della sua partecipazione. Grazie. Grazie, arrivederci. Sentiamo Stefano da Milano, un radioascoltatore. Buongiorno Stefano. Buongiorno, volevo raccontarvi la storia di Nerviano, che è un piccolo paese vicino a Milano, dove già da tempo diversi supermercati, uno in particolar modo della grande distribuzione, ha delle aree dedicate dove si può andare ad acquistare prodotti in scadenza che sono sistematicamente scontati al 50%. E si fa la spesa, certo è chiaro, uno non ha la scelta di tutto quello che può desiderare, però se riesce in qualche modo anche ad adattarsi a quello che trova all'interno di queste aree, si può ottenere un bel risparmio e non buttare via del cibo che è buono. Bene, grazie Stefano per il suo intervento. Numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Sara da Treviso. Buongiorno Sara. Sì, buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza e quella di tante altre famiglie che hanno i bambini che mangiano le mense scolastiche e che molto del cibo che non viene utilizzato dai bambini viene sprecato e buttato nel cestino. E quindi dove questo succede? Nelle scuole di Treviso? Sì, ma non nelle scuole di Treviso, perché a Treviso c'è qualcosa che non funziona, perché credo che le norme igieniche costringano le mense a gettare il cibo che non viene utilizzato. Bene, grazie Sara della sua testimonianza. Devo dire che ho moltissimi SMS che sono anche abbastanza contraddittori. Negli Stati Uniti ha aperto una catena che vende solo prodotti scaduti. Bene, bisogna vedere però da quanto tempo sono scaduti. A Bolzano i prodotti ammaccati vengono proposti in offerta speciale. Ma poi sentiamo anche Andrea da Bergamo. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Prego. Allora, io brevemente volevo dire che secondo me c'è un problema del concetto delle date di scadenza, perché spesso sono soltanto indicative, mai vincolanti. A me, per esempio, è capitato di mangiare yogurt scaduti da un paio di giorni, buonissimi, i formaggi che assolutamente possono comunque rimanere nel frigorifero ancora per moltissimo tempo. Quindi... Bene, guardi, io mangio yogurt scaduti, latte scaduto nel vetro, però pasta scaduta, olio scaduto. Quindi credo che assolutamente non ci siano grossi problemi. È evidente che bisogna conservare le merci in maniera particolare, cioè diciamo che non ci siano temperature alte, che siano fuori dalle fonti di luce, ma credo che questo sia normale. Il problema è che ci sono delle norme per chi vende, non per chi porta a casa. Quindi queste norme esistono. Se posso brevemente portare anche un esempio molto personale. Mia madre, che non ha assolutamente problemi economici o altro, lei ha fatto un accordo molto personale, molto privato, con un piccolo centro commerciale, e quindi può attingere alle merci che vengono buttate assolutamente con magari una confezione ammaccata piuttosto che un piccolo segno su una pesca o altro, e quindi noi alla fine abbiamo la possibilità di poterci sfamare anche con... Bene. Cibo che verrebbe. Grazie Andrea di questa esperienza personale. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Di nuovo a parlare di spreco, però dobbiamo parlare di spreco, ma contemporaneamente dobbiamo anche registrare ciò che avviene in questo paese. Allora devo segnalare che dal 22 al 25 giugno di appunto prossimo a San Daniele c'è una grande festa. La grande festa si chiama Aria di Festa, ma diciamo che celebra il famoso prosciutto friulano, ovvero sia il prosciutto di San Daniele. Bene, per 4 giorni in questo piccolo centro così attivo ci saranno appunto feste, musica, ci sarà in ogni angolo appunto del borgo ci sarà qualcosa, degustazione ed altro, quindi il tutto per anche diciamo festeggiare i 50 anni appunto di questo importante consorzio. Bene, torniamo al nostro argomento, speriamo che in questa festa non ci siano appunto degli sprechi. Torniamo a parlare appunto dell'argomento e io ricordo numero verde 800 24 00 24 e ora andiamo in Sicilia, andiamo da Giuseppe Guagliardi che è componente del Consiglio di Amministrazione dei Mercati Agroalimentari Siciliani e a lui chiedo se ci sono così delle operazioni, se ci sono appunto degli interventi per recuperare o per non buttare il cibo appunto dei mercati che in Sicilia sono molto ma molto importanti. Buongiorno Guagliardi. Buongiorno. Sì. Prego. Da noi al mercato facciamo 2 operazioni. Una è quella di donare agli enti religiosi, alle comunità che hanno bisogno, quello che il sabato rimane ed è talmente maturo da non poter aspettare il lunedì, oppure quello che già arriva verso la marciscenza lo restituiamo ai produttori che lo portano in campagna per concimare, ecco, questo qua si cerca di evitare di metterlo nel bidone della spazzatura, quindi qualsiasi sia il grado di maturazione del prodotto. Bene, rimanga con noi, sentiamo Renato da Venezia, un radioascoltatore. Buongiorno Renato. Buondì, amico mio. Prego. E volevo dirle questo, telefono da Venezia, sì, che ho saputo ieri che da Villa a Cannaregio, in Strada Nuova, il pane che rimane alla sera viene buttato via nell'immondezzaio e la commessa che me l'ha detto era veramente stravolta da questo fatto. Dice, c'è gente che ha bisogno anche di un pezzo di pane e qui buttiamo via tutto. E potrebbe, se non altro, anche servire per gli animali, ma è pane fresco. Non è alterato né niente, viene solo buttato via perché ci sarà la norma che dice che alla sera il pane deve essere buttato. Bene, la vedo molto sorpreso, ma lei prima diciamo di sapere da questa commessa questo particolare cosa pensava? Pensava invece che venisse ridistribuito questo pane? No, ridistribuito no, sarebbe stata una cosa troppo bella, ma almeno rivenduto il giorno dopo. Ho capito. Va bene, grazie Renato da Venezia. Abbiamo con noi ora Andrea Giussani, che è presidente della Fondazione Banco Alimentare. Buongiorno Giussani. Buongiorno. Bene, Banco Alimentare durante la trasmissione è già emerso tante volte. Bene, voi fate una straordinaria opera di recupero. Ecco, in questi ultimi anni, diciamo, ha dato dei risultati sempre più positivi, la gente è sempre più disponibile a questo tipo di operazione, oppure invece ci sono degli ostacoli? Sicuramente la coscienza che le eccedenze alimentari in tutti i punti della filiera sono uno scandalo per tutti, per la nostra società e per chi ne ha bisogno, è una mancanza per chi ne ha bisogno, un'opportunità persa, è diventata più frequente, più viva. Forse maggiormente solo in alcuni momenti in cui si chiede l'operatività del consumatore finale messa alla prova da una capacità di dono. Cito a questo proposito la nostra giornata nazionale della colletta alimentare in cui si chiede ai consumatori di fare una spesa in più per gli indigenti fine novembre di ogni anno. Però questo è un momento in cui si chiede proprio esplicitamente e direttamente ad ognuno, c'è un volontario che ti chiede. Quando invece la faccenda del recupero delle eccedenze è lasciata a un'operatività o è costretta a passare attraverso un'operatività con delle difficoltà procedurali, con delle difficoltà di costruire una capacità tecnica, certo è più difficile. Per questo io sottolineo il fatto che il Banco Alimentare, la rete dei 21 banchi sul territorio, è certamente un'opera di carità, ma innanzitutto è un'organizzazione di logistica, un'organizzazione di tecnica di logistica, cioè la capacità di recuperare mantenendo però alta la qualità dell'alimento che viene recuperato, perché non tutti gli alimenti, ahimè, sono fungibili, sono recuperabili. Voi capite che ciò che è finito sulla nostra tavola o ciò che viene consumato, viene servito in un catering o ciò che è scaduto in un'azienda della distribuzione, della produzione, è andato oltre la data di scadenza, non è più assolutamente recuperabile. Noi ci occupiamo dell'altra parte, di ciò che è ancora recuperabile, e confermo, la coscienza aumenta. La difficoltà è che bisogna fare un piccolo sforzo, uno sforzo organizzativo da parte dell'azienda nel predisporre procedure, nel ottenere, nel organizzare il recupero, da parte nostra ovviamente nella velocità del recupero, nella velocità della distribuzione alle 8.700 strutture caritative che serviamo, cosa che noi continuiamo a fare e auspichiamo che aumenti. Bene, io la ringrazio, grazie, lei ha chiarito appunto i punti, ha chiarito come funziona, la ringrazio molto, a presto Giussani. Grazie, arrivederci. Ma devo dire che a proposito di logistica c'è uno strano SMS che dice: l'iniziativa è molto semplice, la grande distribuzione deve licenziare i responsabili di logistica incapaci. Beh, non credo che sia questo il punto. Sentiamo Enrico da Verona, radioascoltatore, buongiorno Enrico. Buongiorno, salve. Volevo dire una cosa riguardo un'esperienza che ho avuto. Mio zio fa il sacerdote a Verona e lì vicino c'è la sede della Bauli. Quindi un suo parrocchiano che lavora lì gli ha portato dei panettoni che avevano una forma non perfetta. Nel sacchetto ovviamente, non nella scatola completa, erano nel sacchetto. Erano perfetti, non avevano nessun problema, non erano scaduti, non erano deperiti. E allora mio zio ha chiesto: ma perché non portarli alla Caritas? E lì gli hanno risposto: beh, non li portiamo alla Caritas perché alla Caritas li accettano solo ed esclusivamente se hanno una scatola, nel sacchetto non li accettano. Bene, questo non so se c'è qualcuno che può rispondere a questo interrogativo, ben volentieri. Voglio tornare un secondo su Guagliardi, volevo chiedere se hanno dei dati, hanno potuto calcolare un valore economico di quello che può venire recuperato nei mercati agroalimentari siciliani, Guagliardi. Sì, diciamo che noi riforniamo qualcosa come 200 istituti caritatevoli, quindi mediamente questi possono consumare qualcosa come, non so, 300-400 euro a settimana di prodotti freschissimi come i nostri, quindi la moltiplicazione è semplice. Certo. Poi anche noi abbiamo provato a dare alla Caritas, però effettivamente, come diceva Giussani prima e come il vostro ascoltatore, la logistica attorno a questi prodotti freschissimi è troppo difficile da gestire, cioè già viene difficile agli operatori del settore, immaginiamoci a quelli che devono fare il recupero, quindi effettivamente è vero, è un po' ostica andare a distribuire questo prodotto, i prodotti freschissimi che sono già in questo stato di maturazione. Bene, la ringrazio, grazie della partecipazione, sentiamo Francesco da Brescia, buongiorno Francesco. Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, io volevo solo portare una mia esperienza, sollevare un problema che secondo me non avete ancora affrontato, e cioè che spesso se si vive in una piccola famiglia, come succede a me, siamo tre persone, si è costretti su determinati prodotti ad acquistare delle quantità notevoli. L'esempio più tipico sono le cipolle, che non vengono vendute sfuse ma vanno comprate nel sacchetto, e mio malgrado mi trovo spesso a dover buttare via del cibo perché non ho potuto comprare una quantità più piccola. E la stessa cosa succede per esempio con altri prodotti non freschi, sui quali magari viene fatto anche un'offerta economica vantaggiosa comprando delle grosse quantità. Bene. Mentre andando a comprare delle quantità più ridotte, certo, si paga, certo, molto di più, e quindi il consumatore è invogliato ad acquistare queste confezioni perché costano meno, e poi a buttare via magari, certo, parte del cibo, e mi sembra veramente uno spreco. Grazie di questo appunto, perché può essere interessante anche questo. Sentiamo Raffaello da Milano. Buongiorno Raffaello. Eccomi qua, buongiorno. Prego. Mi unisco anch'io ai complimenti, seguo spesso la trasmissione, quindi complimenti. Il mio contributo, pronto, mi sento? Prego, sì, parli pure. No, dicevo, il mio contributo è rispetto alla consapevolezza, all'educazione che nasce, è già stato sviluppato, qualcuno è già intervenuto in questo senso, la capacità di capire quello che si deve comprare nasce proprio dalla famiglia. Quindi la quantità necessaria al consumo e non di più, e quindi non fare acquisti solo perché sono economicamente vantaggiosi, certo, è un po' quello che ha detto l'ultimo. Quindi prevenire lo spreco acquistando meno, questo acquistando il giusto, non meno, acquistando il giusto. Gli insegnanti, nelle scuole, i genitori prima di tutto, facendo capire che un fatto di educazione. È l'aspetto economico quello che determina l'acquisto, certo, e la consapevolezza delle quantità e delle necessità del nucleo familiare. Grazie Raffaello da Milano, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci sul finale di questa trasmissione tutta basata, ahimè, sugli sprechi. Sentiamo Elena dalla provincia di Vicenza, una radioascoltatrice. Buongiorno Elena. Sì, buongiorno a voi e innanzitutto complimenti, perché la vostra trasmissione ci insegna sempre qualcosa in più. Bene. Riguardo all'argomento di oggi, io sono single, vedova da 3 anni e volevo proporre ai supermercati, perché non fare dei corner di promozione con magari anche i prodotti che scadono fra 2 o 3 giorni, e così la gente è più invogliata anche con problemi di soldi a fine mese. È una proposta. Bene, grazie, noi la prendiamo e la rilanciamo su questa rete. Bene, grazie Elena. Ora abbiamo con noi Gabriella Iacono è presidente di Milano Ristorazione, che è un fatto molto importante perché, se non erro, diciamo, è responsabile di tutta la gestione delle mense scolastiche e di ben altro. Buongiorno Iacono. Buongiorno, grazie. Volevo sapere, vogliamo conoscere, cioè la Milano Ristorazione ha qualche sistema per recuperare, quindi per non sprecare il cibo appunto che viene distribuito? Sì, innanzitutto ci tenevo a comunicarvi i numeri. Noi, la Milano Ristorazione, gestisce la ristorazione scolastica e quindi dà da mangiare a circa 75.000 bambini tutti i giorni. Quindi gestiamo dei volumi molto importanti e unici in Italia. Inevitabilmente lo spreco c'è anche nelle mense scolastiche di Milano, nei termini appunto di accettazione. Quelle che noi riusciamo a recuperare dalle scuole, direttamente dalle scuole, sono circa 100 di scuole, è il pane e la frutta. Le scuole aderiscono in modo volontario a questo recupero, aderendo al progetto di City Cibo Banco Alimentare, perché tutti i giorni dei volontari di City Cibo vanno nelle scuole al termine del consumo del pasto e recuperano il pane e la frutta, che gli stessi bambini recuperano dai loro tavoli, non avendolo consumato, e portano, diciamo, in un luogo di raccolta, e questo secondo me è un grande messaggio educativo anche per i bambini. Appunto, quindi c'è anche un valore educativo su questo, diciamo, su questa operazione, se non sbaglio. Sì, assolutamente sì, è un modo diretto per il bambino di rendersi conto di quanto sia importante non sprecare cibo, e soprattutto un messaggio che riteniamo possa portare anche in famiglia, quindi veicolandolo in famiglia, dando questo messaggio molto importante di lotta allo spreco alimentare. Per darvi dei numeri, nel 2011 sono stati recuperati circa 50 tonnellate, l'equivalente di 1 milione di porzioni di pane, e di frutta 90 tonnellate, l'equivalente di 600.000 porzioni di frutta. Mm-hmm. sono, come vedete, numeri certo, importanti, ma riferiti ai nostri grandi numeri di consumo. Tenete conto che la frutta che noi doniamo al City Cibo è il 3,5% di quello che noi distribuiamo in tutte le scuole, cioè del nostro fabbisogno. Bene, grazie Gabriella Iacono. Gabriella Iacono, avete sentito i dati, appunto, il presidente di Milano Ristorazione, che c'è, dove è un'operazione che c'è anche un valore educativo per i bambini, e credo che questo sia veramente fondamentale. Bene, abbiamo anche con noi Nicole Viano, che è responsabile della Ristorazione Italy Roma, che si è aperta in questi giorni, ma credo che Italy in qualche maniera anche nelle altre sedi abbia messo in atto, in pratica, qualche operazione di recupero cibo. Buongiorno Viano. Buongiorno, buongiorno. Assolutamente, ma in realtà il concept stesso di Italy, che prevede questi due aspetti della vendita e della ristorazione, che fanno sì che Italy funzioni quasi come un'economia domestica, con una riduzione massima degli sprechi. Per farvi un esempio, quando abbiamo un prodotto dell'ortofrutta che conserva tutte le sue caratteristiche organolettiche di freschezza, di gusto, è perfetto nella sua essenza, ma che magari è leggermente rovinato per il trasporto, per vari motivi, perché magari è da un giorno che è sul banco, noi non lo buttiamo via, lo riusciamo a riutilizzarlo grazie ai nostri chef che preparano tutti i nostri piatti, ad esempio i piatti che andremo a servire al ristorantino delle verdure e quant'altro. Lo stesso discorso può valere per i prodotti del mercato, del grocery, ad esempio quando abbiamo un pacco di pasta rotto o un pacco di riso che ha perso il sottovuoto, abbiamo l'opportunità di riutilizzarlo in cucina. Quindi diciamo il collegamento vendita con la ristorazione è importantissimo. Quindi vendita e ristorazione certo. È importantissimo per gestire certo. Al meglio tutti i prodotti di certo. Cui disponiamo, che abbiamo a disposizione. Inoltre, per portare avanti questo discorso, Italy organizza anche tutta una serie di corsi gratuiti, dei corsi di didattica, a volte soprattutto alle casalinghe, ai pensionati, ai bambini, che cercano di insegnare a queste persone, attraverso il supporto dei nostri chef, a riutilizzare tutti i prodotti in cucina, insegnando a loro le ricette del recupero, le ricette della tradizione, in modo tale da poter ottimizzare anche l'economia domestica e la spesa domestica. Bene, grazie a Nicole Viano di Italy. E, volevo ricordare, a proposito, ha parlato di cucina e di casa, che purtroppo non siamo riusciti a rintracciare Elisa Casali, che ha scritto un bellissimo libro che esce in questi giorni, che si chiama Eco Cucine, Gribaudo editore, azzerare gli sprechi, risparmiare ed essere felici. Bene, sentiamo Emanuele della provincia di Monza, Brianza. Buongiorno Emanuele. Buongiorno, è provincia di Torino comunque. Ah beh, vabbè. Niente, io volevo semplicemente portarvi a conoscenza che il problema non è tanto nella grande distribuzione che buttano gli alimenti, è che purtroppo ci sono delle leggi sulla sanità che sono molto restrittive, quindi anche loro si trovano purtroppo obbligati a dover buttare via molti alimenti, soprattutto alimenti deperibili. Quindi dal mio punto di vista basterebbe essere o un pochino più elastici anche come leggi, o trovare un sistema, una soluzione che permetta comunque la ridistribuzione in un secondo mercato degli alimenti che non possono più essere venduti. Bene, grazie Emanuele. Maurizio da Lecce, ho 30 secondi, prego. No, molto buongiorno, molto semplicemente. Io la chiamo Daveglia, in provincia di Lecce. Noi facciamo caritativa, è successo lo scorso anno che eravamo ad un matrimonio, lei lo sa quanto cibo si spreca nei matrimoni, e al secondo dei primi abbiamo deciso, ci è venuto così spontaneo di dire, ma tutto questo cibo, ne abbiamo parlato con gli sposi, ne abbiamo parlato con il ristoratore, è stata un'idea eccellente, e da quel momento in poi il ristoratore ci chiama ad ogni matrimonio, ci danno tutto quello che rimane non toccato all'interno dei tegami della cucina, e noi facciamo un catering di lusso per i poveri, per i bisognosi. Bene, grazie Maurizio di questa idea, di questa testimonianza. Devo dire che ho ricevuto tra gli SMS, due SMS che segnalavano delle sagre in giro per l'Italia. Non so se era una provocazione o se era veramente una una segnalazione vera e propria, però devo dire a proposito di sagre che credo che lo spreco veramente durante le sagre, durante queste manifestazioni di piazza è veramente incredibile. Io più volte mi sono battuto per una regolamentazione delle sagre, tra cui anche un discorso appunto igienico, igienico-sanitario, fiscale, ma anche e soprattutto di recupero del cibo, quindi vedere dove finisce molta parte del cibo, perché è estremamente importante. Io credo che durante queste manifestazioni, se si vanno a calcolare appunto quanti quintali cibo viene buttato ancora commestibile, è davvero impressionante. Quindi credo che anche vadano regolamentate, lo ripeto ancora una volta, le sagre vadano regolamentate, perché sicuramente anche lì si possono ottenere dei recuperi ed altro. In conclusione io volevo dire solo, fare una, diciamo una, un'osservazione. Io credo si è parlato molto di spreco, di recupero dello spreco. Io credo che la parte principale sia prima, cioè prima di arrivare allo spreco, quindi di consumare semplicemente quello che è necessario. Io credo che questa sarebbe la miglior medicina per combattere lo spreco. Bene, io vi do appuntamento domani alle 18 con la replica di questa trasmissione, alle 18:15 con il riposo del guerriero, e ogni giorno con la pillola alle 11 e replica alle 23. Un buon weekend da Davide Paolini. Il gastronauta.